Sotto il plaza, gli sguardi fermi come fotografie. Sotto il plaza, le mani fredde oblique nelle mie. Muove il plaza, fermare il tempo con abilità. Hotel Plaza, un grido curvo senza atrocità. La notte pelle trasparente, le voci basse nelle stanze. La mia presenza è un incidente, così dolce per me. Dentro questi specchi, Hotel Plaza, dimenticarsi di fuggire via. Hotel Plaza, l'onore intenso come frenesia. I giorni spesi lentamente, i passi incerti nelle stanze. Il cuore è un dubbio intermittente, così dolce per noi. Questi specchi. La tua tranquillità, la forza che non hai. Vorrei strapparti un grido e portarti via. La tua immobilità, la rabbia che non hai. Schiacciata in questi specchi è una follia. Amo i tuoi fiori come nevrastenie. Hotel Plaza, le mani fredde oblique nelle mie. La notte è un segno permanente, il ritmo lento delle danze. Ricordo Atlantico dicembre, così dolce per noi. Dentro quegli specchi,